Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus esplode, la rivolta nelle carceri di mezza Italia, da Palermo a San Vittore, 3 vittime a Modena per le proteste di ieri, a Pavia sequestrati 2 agenti. E intanto scattano le prime denunce per violazione del divieto di spostamento nelle zone arancioni, fermati 2 giovani di Parma in partenza per una vacanza a Madrid. Borse in picchiata, pesano i timori per il contagio ma anche la guerra del petrolio con il prezzo del Brent in discesa. La crisi dei profughi alla frontiera greco-turca, oggi Erdogan incontra i vertici europei a Bruxelles in cerca di una soluzione. Calcio a porte chiuse, ma cresce il pressing per interrompere la Serie A. Dopo il ministro Spadafora, anche Di Maio invita meglio non giocare. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Dedicheremo un'ampia pagina naturalmente agli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie sul coronavirus, che hanno avuto delle conseguenze anche all'interno delle carceri italiane. Come sapete, come avete sentito anche dai titoli, ci sono state una serie di proteste scoppiate anche oggi, dopo che già ieri c'erano state delle rivolte a Salerno, Frosinone e Modena. Oggi tumulti per lo stop alle visite dei parenti, proprio come misura per il contenimento del contagio da Covid-19. Ebbene, questi tumulti sono esplosi in mezza Italia, da Palermo a San Vittore. Sentiamo. Secondo fonti sindacali sono 27 gli istituti di pena coinvolti nelle proteste e nelle rivolte. Stamane è salito a 6 il numero dei detenuti morti in seguito alla sommossa scoppiata ieri nella casa circondariale di Modena, dove si contano anche 18 feriti, compresi agenti e personale sanitario. Ai 3 registrati ieri sera si sono aggiunti decessi di altrettanti reclusi che nel frattempo erano stati trasferiti a Parma, Alessandria e Verona. Per 5 di loro la causa della morte sarebbe una overdose di medicina saccheggiati nella farmacia interna. Il 6° detenuto è stato soffocato dai fumi provocati dall'incendio di alcuni materassi. Stamane tentativi di evasione sventati a Palermo, al carcere del Luciardone e nella casa circondariale di Foggia. A Milano, San Vittore, decine di reclusi sono saliti sul tetto del penitenziario, dal quale si levano colonne di fumo e urla. Trattative in corso con il questore e un magistrato. Nel carcere romano di Rebibbia tensione e danni molto ingenti. Andrea Ferro, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E proseguiamo con le altre notizie sul coronavirus in Italia, in attesa degli aggiornamenti sui numeri dei contagi e dei ricoveri, numeri che arriveranno questa sera e numeri che, occorre ricordarlo, dipendono dal comportamento di ognuno di noi. Tra poco cercheremo di capire qual è la situazione negli ospedali, soprattutto in Lombardia, ma anche in Veneto e in Piemonte, ospedali in prima linea. Sentiremo anche come vanno interpretati i divieti del decreto Conte, cosa si può e cosa non si può fare, quali sono le sanzioni. E a proposito, intanto oggi i carabinieri hanno denunciato 2 giovani di 20 e 25 anni provenienti da Parma. Stavano andando all'aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid, violando così l'area interessata dalle misure restrittive della zona arancione per limitare il contagio da coronavirus. Entrambi questi giovani sono stati denunciati. Intanto nel mondo rallenta il passo in Corea del Sud, ma ormai il virus è in oltre 100 paesi, boom di contagi in Europa, in Francia e Germania, oltre 1000 casi. Si sposta e si allontana progressivamente dall'Oriente e dalla Cina. Il Covid-19 in continua diminuzione rallenta anche il passo in Corea del Sud, anche se rimane il secondo paese prima del nostro per contagi nel mondo, oltre 7.400. Sono però 248 i nuovi casi, il minor numero in 12 giorni. Ma nel mondo il virus supera la soglia delle 100.000 persone contagiate e dei 100 paesi colpiti. In Europa, sopra i 1.000 contagi, la Francia, il secondo paese più esposto del vecchio continente, si prepara ad aumentare l'allerta a livello 3, che certifica l'epidemia. E poi la Germania, che ha registrato il primo morto, un turista deceduto in Egitto dove i contagi sono ormai 1000, 2 contagi in Albania, tornati da un viaggio a Firenze, sono stabili. Oltreoceano sale la tensione, 30 stati colpiti, oltre 550 contagi. Lo stato di New York, insieme con la California e l'Oregon, ha dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, invita i cittadini a non prendere la metropolitana se malati, camminate o andate in bicicletta. E il senatore repubblicano americano Ted Cruz si mette in autoquarantena dopo i contatti con una persona positiva positiva a una conferenza, presenti anche Trump e il vice Pence. Sale il conteggio nel resto del mondo, 4 nuovi casi in Arabia e 12 in Argentina, si aggravano in Iran, quarto paese per contagi, che rilascia ben 70.000 detenuti con permessi temporanei. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E la situazione è molto pesante anche sui mercati finanziari, dove si è scatenato un vero e proprio panico con ordini di vendite e perdite pesanti degli indici. A Milano in questo momento il calo è dello 10%, mentre il governo annuncia nuovi sostegni al reddito dei lavoratori che hanno perso il lavoro proprio a causa del coronavirus. Un'ondata di vendite piega Piazza Affari, peggior listino in Europa, arrivato a perdere anche il 10%, ma Milano non è sola, vanno male Londra, Parigi, Francoforte. A spaventare le borse sono l'espandersi del coronavirus e la discesa del prezzo del petrolio ai minimi da quasi 30 anni per la guerra sui prezzi tra Arabia Saudita e Russia. In Italia le misure prese dal governo per contenere l'epidemia fanno volare anche lo spread, il differenziale di rendimento tra BTP e Bund a 215 punti base. Il Ministero dell'Economia prova a rassicurare. Gli interventi di politica economica in fase di definizione saranno vigorosi ma limitati nel tempo, spiega un comunicato. Ci saranno misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale e in particolare nei settori e nei territori più impattati. Tra le misure allo studio, dice a 24 Mattino il vice ministro all'economia Antonio Misiani, c'è una moratoria sui prestiti. Stiamo lavorando per una moratoria molto ampia dei prestiti alle imprese e alle famiglie, perché riteniamo che garantire la liquidità, in particolare alle imprese, sia un punto chiave. Anche Bruxelles valuta gli effetti del coronavirus sull'economia. Se ne discuterà nell'Ecofin della prossima settimana, dice la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Si valuta anche la flessibilità del patto di stabilità e norme per aiuti di Stato in circostanze eccezionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora le altre notizie. È tutto pronto a Bruxelles per l'incontro tra il presidente turco Erdogan e i presidenti del Consiglio e della Commissione europea Michel e von der Leyen. Si cerca di riportare un po' di serenità nei rapporti tra Europa e Turchia dopo le tensioni al confine greco-turco della settimana scorsa. Si parlerà quindi di migrazione, sicurezza e stabilità nella regione e al vertice che si terrà oggi a Bruxelles tra il presidente turco Erdogan e i presidenti di Consiglio e Commissione europea Michel e von der Leyen. Il vertice nasce dalla necessità di riportare la serenità nei rapporti tra Europa e Turchia dopo le tensioni al confine greco-turco della settimana scorsa. La condizione necessaria affinché questo incontro potesse avvenire era che la Turchia chiudesse le porte della frontiera turco-greca a profughi e migranti, come di fatto è avvenuto. Sotto il capitolo migrazione si cercherà poi di fare chiarezza sulle diverse interpretazioni riguardo all'accordo tra Ankara e Bruxelles già in essere. Nel suo discorso dei 100 giorni, la Presidente della Commissione ha detto anche che c'è per i Paesi membri dell'Unione l'obbligo di proteggere le frontiere, ma anche di garantire i diritti fondamentali. Dichiarazione in contrasto, per la verità, con la decisione della Grecia di sospendere il diritto di asilo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo ai dati economici con il rapporto Istat, IMSS, INAIL sul mercato del lavoro nel 2019. Bene, il terzo e quarto trimestre si sono chiusi positivamente per quanto riguarda l'occupazione in Italia, che ha raggiunto un massimo storico di 23,4 milioni di unità, però poi nei dati preliminari di dicembre e di gennaio invece si è iniziato a registrare un calo. Ma sentiamo tutto. Gli effetti del coronavirus, già certificati nel rapporto annuale di Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL, la comparsa del Covid-19 a gennaio, si legge in un passaggio del documento, e la sua rapida diffusione in Cina e nel resto del mondo stanno indebolendo ulteriormente le prospettive di crescita economica, con un prevedibile impatto sfavorevole anche sul mercato del lavoro. Solo un accenno, mentre per il resto i dati si riferiscono al terzo e quarto trimestre 2019, con un'occupazione in Italia al massimo storico di 23,4 milioni di unità, ma già nei dati preliminari di dicembre e gennaio in calo. Dunque un mercato del lavoro in difficoltà, in una fase di incertezza già prima dell'esplosione del problema sanitario. Nel rapporto si sottolinea poi come cresca il part-time, sempre più spesso involontario, ossia non per scelta ma perché unica alternativa rispetto ad un orario di lavoro standard, e come i licenziamenti relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano diminuiti, passando da 640 47.000 nel 2014 a 579.000 nel 2018, circa 9 su 10 per ragioni economiche, ma sale l'incidenza dei licenziamenti per motivi disciplinari. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 10 minuti al momento dello sport e del calcio. Si sono giocate le partite di Serie A a porte chiuse, i recuperi, e si completa il quadro oggi. Domani invece chissà. Carlo Genta, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno. Allora, alle 18.30 è in programma, ovviamente a porte chiuse, Sassuolo Brescia, che chiude questa giornata di recupero della giornata precedente, in cui abbiamo finalmente visto Juventus-Inter, che era diventata una specie di colonna d'Ercole, no? di tutto il sistema. Sul fronte agonistico vince la Juventus, sul fronte sportivo non vince ovviamente nessuno, ma non saprei cosa dire, perché domani c'è un consiglio di Lega che potrebbe stabilire lo stop totale del campionato. Su cui oggi è arrivata anche l'opinione del ministro degli esteri Luigi Di Maio, dopo quella del ministro dello sport Spadafora, che aveva detto meglio fermarsi, e anche Di Maio ha detto meglio non giocare, e la Lega dice non volete che non giochiamo, fate un decreto, diteci che non dobbiamo giocare, che se ne fate uno e dove ci dite che dobbiamo giocare. Sì, perché ricordiamo che sabato notte è stato decretato, insomma, questo. Esatto, era stato decretato questo, cosa che si è fatta ieri. Il balletto prima della gara che ha aperto questa giornata era in programma alle 12.30, Parma-Spal, squadre che erano già praticamente in campo, sono state richiamate negli spogliatoi perché c'era il ministro al telefono che faceva pressioni per non giocare. Francamente una brutta istantanea che mandiamo in questo momento di confusione. Comunque domani si deciderà, poi c'è tutto un altro discorso, che è quello legato alle coppe europee, perché in quel caso non si parla di fermare le coppe. Tra l'altro l'Atalanta sta per tornare in campo, poi lo faranno anche la settimana prossima la Juventus e il Napoli. L'Inter e la Roma sono impegnate in Europa League, lì non si parla di sospensione, certamente di porte chiuse per le partite che si giocheranno in Italia, ma non di sospensione delle coppe. Aggiungo per ora, ma non vorrei essere un uccello del malaugurio. Grazie Carlo Genta, appuntamento dopo. Naturalmente con il programma sportivo, tutti convocati dopo le 14. Per quanto riguarda effetto giorno, facciamo un piccolo break, siamo arrivati alle informazioni sul traffico, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Andremo a cercare di capire qual è la situazione negli ospedali in prima linea, soprattutto con delle interviste esclusive in Lombardia. E poi le misure delle discordie, il decreto del Presidente del Consiglio, il sabato notte, cosa si può, cosa non si può fare, quali sono le sanzioni. La notizia di oggi è che due giovani di Parma stavano andando all'aeroporto di Bologna per una vacanza a Madrid, sono stati fermati e denunciati. Questa è la situazione oggi, che ci piaccia o no. Il buon senso, ce l'hanno detto tutti gli esperti, deve prevalere. Bisogna stare a casa, fondamentalmente, soprattutto nelle zone arancioni, ma non si scherza neanche nel resto del paese. Poi, cosa accade nelle carceri italiane, dove ci sono una serie impressionante, forse senza precedenti, di rivolte? Tra poco, 349-238-6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, esplode la rivolta nelle carceri di mezza Italia per lo stop alle visite dei parenti. Da Palermo a San Vittore, a Modena 6 vittime, a Pavia sequestrati 2 agenti. E intanto scattano le prime denunce per violazione del divieto di spostamento. Nelle zone arancioni, fermati 2 giovani di Parma in partenza per una vacanza a Madrid. Borse in picchiata, pesano i timori per il contagio, ma anche la guerra del petrolio con il prezzo in discesa del Brent. Milano cede il 10%. La crisi dei profughi alla frontiera greco-turca. Oggi Erdogan incontra i vertici europei a Bruxelles in cerca di una soluzione. Calcio a porte chiuse. Oggi si gioca ancora, ma intanto cresce il pressing per interrompere la Serie A. Dopo il ministro Spadafora, anche Di Maio invita meglio non giocare. 13:16, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Avete appena sentito i titoli di oggi in primissimo piano, cioè una serie senza precedenti forse, di proteste all'interno delle carceri italiane. E ne parliamo con Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sono ore veramente, sì, sembra una frase di rito, ma è così, terribili, perché giusto per dare un'idea della cronaca, a San Vittore sono stati detenuti saliti sul tetto, fumo che usciva dal carcere, sono arrivate le volanti, a Lucciardone, sì, a Palermo un tentativo di evasione, il bilancio è pesantissimo a Modena, dove si parla di 6 vittime per le proteste che sono, per le manifestazioni state ieri dentro il carcere, e poi 2 agenti sarebbero stati sequestrati a Pavia. Intanto, se queste notizie, le chiedo, Capece, corrispondono alla verità, quali sono le ultime, sì, notizie che lei ha? Qual è la crisi più grave in questo momento? Sì, è vero. La crisi più grave riguarda l'istituto di Foggia, dove sembrerebbe siano evasi un centinaio di detenuti che hanno in pratica preso in mano tutto il carcere, hanno scavalcato i cancelli di sbarramento e sono fuggiti. Ora, sì, tutti noi li stiamo cercando, so che addirittura era preorganizzata questa fuga di massa, perché i familiari si sono trovati pronti per caricare a bordo. Addirittura mi dicevano poc'anzi che alcuni si sono asserragliati in un supermercato a difesa della loro evasione. Senta, Capece, guardi, problema... so che, scusi, poi arriviamo anche al problema e all'origine di queste, sì, proteste, perché è giusto spiegare che cosa sta accadendo dentro le carceri. Però la domanda che le voglio fare, forse una domanda ingenua, come è stato possibile che un centinaio di persone siano riuscite a evadere dal carcere? Gli agenti di polizia sono stati sopraffatti? Che cosa è accaduto? Questo sicuro, sono stati sopraffatti, perché quando 600 detenuti, 700 detenuti che sono a Foggia si mettono d'accordo tra di loro per rivoltarsi all'interno del carcere, non certo i 30 agenti, 40 agenti di servizio possono fermarli, perché come voi sapete la polizia penitenziaria in carcere non ha le armi, non abbiamo assolutamente niente se non il convincimento e l'autorevolezza che ci arriva perché appartenenti allo Stato, come rappresentanti dello Stato. Il problema, sì, è molto grave, purtroppo, perché erano mesi che covava sotto la cenere questo fuoco. Qualcuno probabilmente sopra ci ha soffiato in questi ultimi tempi, mi riferisco a coloro che hanno promesso, approfittando del coronavirus, chiedono indulto e amnistia, dicendo che sono stati eliminati i colloqui con i familiari. Non è vero questo, perché sono stati... Aspetti un attimo, Capece, scusi, cerchiamo di andare con ordine, perché altrimenti, sì, si rischia di non essere chiari e comprensivi, e comprensibili soprattutto. Cioè, lei dice, è stato alimentato, come dire, una speranza di un condono, e questo, diciamo, può avere intanto agitato gli animi all'interno del carcere, primo punto. Ma questo sicuramente... Da parte nostro... però di chi, Capece? Chi è che ha alimentato questa speranza? Guardi, non lo so, perché se lo sapessi mi regolerei diversamente. Io, cioè, dico, è girata questa voce all'interno del carcere, per cui, esatto, si è creato uno stato, esatto, d'animo di un certo tipo. Invece per quanto riguarda lo stop alle visite come misura non di contenimento per il coronavirus... No, sono state ridotte e controllate, perché non si può avere tantissimi colloqui come prima quando c'è l'effetto contagio, che sì, è lì pronto ed è pericoloso. Purtroppo le carceri oggi bruciano, Milano San Vittore sta bruciando, Palermo il prefetto ha schierato l'esercito fuori dal carcere, cioè, guarda, siamo in una situazione paradossale. E di tutto questo devo dire, mi domando, dov'è il ministro e dov'è il capo dell'amministrazione penitenziaria? Ecco perché chiedo a gran voce che questi due personaggi lascino l'incarico, perché hanno dimostrato tutte le loro incapacità gestionali, hanno fatto una politica fallimentare e ora devono pagare. Cioè, lei sta parlando del ministro Bonafede. Bonafede. Il ministro Bonafede e del capo dipartimento, il dottor Basentini. Perché lei dice si è arrivati a queste rivolte con ci sono stati giorni, forse settimane di incubazione? Ma sicuramente, Il fatto che, per esempio, la vigilanza aperta, la vigilanza cosiddetta dinamica in gergo tecnico, cioè il togliere il poliziotto dalla sezione detentiva e lasciare le celle aperte, ha consentito aspettative, ha consentito creazione di gruppi facinorosi all'interno del carcere, che provene che tutti i giorni la polizia penitenziaria porta a casa aggressioni, porta a casa ferimenti. Tutto questo non è mai successo niente. Il sindacato sappe, che io rappresento, ha più volte chiesto insieme ad altri sindacati l'incontro col ministro per pianificare un intervento e una modifica di questa vigilanza aperta. Stiamo ancora aspettando che ci convochi. Ecco, questo è l'interesse che capito. Si ha verso il carcere. Senta, capisci, un'ultima cosa, in non tanti secondi, so che tra l'altro l'hai atteso anche su altri media, sì, proprio in diretta, per cui diciamo che abbiamo poco tempo sia noi che lei, però ci sono state delle misure adottate per evitare il contagio del coronavirus all'interno del carcere in questo periodo? Cioè, si può dare da questo punto di vista un messaggio tranquillizzante, perché i nuovi entrati nel carcere possono tranquillamente essere portare il virus, e siccome si sa che nel carcere c'è un problema di sovraffollamento, qual è la situazione? Purtroppo, che mi risulti, sono state solo pubblicate delle circolari, le direttive per gli istituti, ma non abbiamo nessun dispositivo di protezione individuale per la polizia penitenziaria. Hanno solo creato delle tensostrutture, dei gazebo dove poter fare i triage, ma sì, di questo non ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di attenzione, di prevenzione e soprattutto mettere in condizione la polizia penitenziaria di non avere un contagio diretto, ma cercare quantomeno di essere tutelati, anche perché questa cosa poi creerebbe grandissimi problemi nell'istituto. Prendiamo per esempio Poggio Reale, 2400 detenuti, lei si immagini se dovesse subentrare un contagio all'interno di Poggio Reale, quel che succede. Assolutamente, grazie a Donato Capesce, segretario del SAP, grazie per essere stato con noi, buona giornata. È la situazione veramente esplosiva all'interno delle carceri italiane. Staremo a vedere. Speriamo che si riesca a fermare le rivolte, ma anche a garantire lo spazio vitale all'interno del carcere, le misure di distanza, distanziamento sociale anche lì all'interno, perché rischia di diventare una polveriera nella polveriera ulteriore questa situazione all'interno delle carceri italiane. Allora, adesso invece volgiamo lo sguardo all'interno degli ospedali che sono in prima linea in queste ore. L'abbiamo anticipato in Lombardia, ma anche in Piemonte, anche in Veneto. Qual è la situazione? Perché è proprio da lì che bisogna partire per capire il senso delle misure restrittive, il decreto varato sabato notte, tutte le limitazioni della libertà personale. Tutto nasce dall'impennata di ricoveri e dal fatto che il sistema ospedaliero è veramente quasi al collasso. Bisogna liberare posti letto, reparti chiusi per far posto ai malati Covid, giovani con quadri clinici pazzeschi, sembra di essere in guerra, sono le testimonianze che arrivano dagli ospedali, da Milano a Bergamo a Cremona. I malati per coronavirus nel nostro paese sono 6.400, in 24 ore 1.300 in più, i morti 366, 650 i ricoverati in terapia intensiva, 400 solo in Lombardia. State in casa, è l'appello dei medici. Maurizio Cecconi, responsabile anestesia e terapia intensiva di Humanitas. Noi rianimatori ci siamo, stiamo lottando per dare posti letto a tutti quelli che ne hanno bisogno, abbiamo però il bisogno dell'aiuto di tutti a ridurre questa infezione. Non dobbiamo dimenticarci che noi dobbiamo offrire terapia intensiva a tutti, non solo a chi ha questa infezione. La stima è che su 1.000 malati positivi ai test, 100 avranno bisogno di terapia intensiva, numeri ingestibili e le risorse non bastano, ci spiega Luca Brazzi, direttore anestesia e rianimazione, Città della Salute di Torino. Con numeri così grandi, il numero di pazienti infetti che necessitano di essere intubati e ventilati meccanicamente in terapia intensiva è molto alto, cioè sta arrivando, come è successo in Lombardia, a superare le capacità del sistema di ricoverare questi pazienti. E l'Ordine dei Medici chiede che tutto il Piemonte venga considerato zona rossa. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così dunque la situazione all'interno degli ospedali, situazione di crisi in alcune zone in particolare. Adesso invece veniamo, l'avevamo anticipato, a parlare delle misure del decreto della discordia, se così vogliamo chiamarlo. Sabato notte il Presidente del Consiglio ha firmato questo atteso decreto, misura delle discordie, perché c'è stata una fuga di notizie durante il giorno, che tra l'altro ha provocato una fuga di persone dal nord verso il sud, lo sappiamo benissimo, un momento diciamo di panico anche comprensibile, ma anche un gesto, è stato detto, di grande irresponsabilità, perché si rischia di portare al sud, che finora è stato indenne, il virus. Discordia anche un po' per il contenuto di queste misure, tra chi, come molti medici, hanno continuato a dire bisognava pensarci prima, bisogna utilizzare misure ancora più restrittive, e chi, per esempio come il mondo economico, invece chiede proporzionalità per non bloccare un paese. Bene, forse dovremmo tutti fermarci un pochino a riflettere, aspettare che qualcosa di positivo accada e a non dichiarare. Basta pensare a due politici diversi che all'inizio della crisi italiana, a fine febbraio, Sala e Salvini, ricordate, invitavano entrambi a apriamo tutto, apriamo Milano, Milano non si ferma, apriamo i bar, apriamo tutto quello che possiamo. Pochi giorni prima di capire che invece era il momento proprio di chiudere tutto e di fermarsi assolutamente. Quindi proviamo a fare questo, a fermarci e ad aspettare notizie positive. Intanto, cosa si può fare, cosa non si può fare e quali sono le sanzioni che si rischiano? Maria Luisa Pezzali. Controlli lungo le strade, negli aeroporti, nelle stazioni, ai caselli autostradali, autocertificazione per i cittadini che si spostano, rischio carcere per chi viola la quarantena. Queste le principali misure previste nella direttiva del Viminale per l'attivazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato della Lombardia e delle 14 province interessate. Gli spostamenti in entrata e in uscita e all'interno delle aree di sicurezza, chiarisce il Viminale, potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o problemi di salute, da attestare mediante un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante, attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia, autocertificazioni la cui veridicità potrà essere verificata anche in seguito. Se lo spostamento non è giustificato, si rischia l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Divieto assoluto invece per le persone in quarantena, che rischiano fino a 3 anni di carcere. Così Matteo Mauri, viceministro dell'Interno, a 24 Mattino. Sì. Uno incappa in un controllo e non ha le motivazioni quelle previste, può incorrere in 2 reati che sono entrambi penali, o il 650, una condanna fino a 3 mesi, oppure se gli viene riconosciuto l'attentato a salute pubblica, fino a 3 anni. Per i voli in partenza le autocertificazioni saranno richieste solo ai residenti nelle aree di sicurezza, per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare il viaggio all'atto dell'ingresso, e a Venezia i passeggeri delle navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città, ma solo transitare per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua, come sempre aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti al 349-238-6666, commenti alle notizie di oggi, se volete, a quello che avete sentito sin qua, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, torniamo tra pochissimo. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, esplode la rivolta nelle carceri di mezza Italia, da Palermo a San Vittore, a Foggia 100 detenuti sono riusciti ad evadere, 6 vittime a Modena nelle proteste di ieri, a Pavia sequestrati 2 agenti. Intanto scattano le prime denunce per violazione del divieto di spostamento nelle zone arancioni, fermati 2 giovani di Parma, erano in partenza per una vacanza a Madrid, in corso un nuovo vertice tra Conte, il ministro dell'Interno e le forze dell'ordine per valutare le misure di contenimento. Intanto borse in picchiata, pesano i timori per il contagio, ma anche la guerra del petrolio, con il prezzo del Brent in discesa, Milano cede il 10%, intanto la Federal Reserve fa sapere che aumenterà la liquidità per gli interventi a sostegno del mercato. La crisi dei profughi alla frontiera greco-turca, oggi Erdogan incontra i vertici europei a Bruxelles in cerca di una soluzione. Calcio a porte chiuse, si gioca ancora oggi, ma intanto cresce il pressing per interrompere la Serie A dopo il ministro Spadafora, anche Di Maio invita, meglio non giocare. 13:37 minuti, cari ascoltatori, nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Velocissimamente i vostri messaggi al 349-238-6666. Ce n'è uno in particolare che voglio leggere, di un ascoltatore che mette un po' il dito nella piaga del decreto presidenziale, ed è una cosa su cui molti ci siamo chiesti in queste ore. Dice l'ascoltatore, dice: ma se andare dal parrucchiere non vale come motivazione, allora come fa il povero parrucchiere a lavorare? Punto di domanda. Al di là delle preoccupazioni per il povero parrucchiere, questa considerazione vale anche per portare il cane al parco, andare in lavanderia a ritirare un capo d'abbigliamento, fare una passeggiata all'aria aperta, perché stando al decreto e all'interpretazione del ministro Lamorgese, ministro dell'Interno, alla direttiva successiva, si può uscire soltanto per lavoro, necessità e salute. Queste sono le motivazioni dentro la zona arancione. Forse qualcuno dovrebbe, diciamo, chiarire questo aspetto, ammesso che si sia compreso il senso generale, che è quello: state a casa. Abbiamo capito che dobbiamo stare a casa, però forse capire in che misura si possa uscire di casa per alcune cose, diciamo, non strettamente di necessità, potrebbe essere un tema da approfondire. È il momento dei giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli.